1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attento Gianni, doppio room. Avanti. Gianni, quel microfono hai detto sito Midland? Eia. Vai sul sito della Midland, poi la seconda, ci sono le pagine disegnate, prima, seconda, terza, tu vai nella seconda pagina e c'è il microfono, si chiama Midland F100. Cosa costa? Hai detto 15 euro con le spese di spedizione? Il microfono 9,90 in offerta, più 10 euro di spese di spedizione. Va 10 euro di spese, 20 euro dai. Esatto. Attento, mettendo il portafusibile qua. A me mi è venuto 15 perché ce l'abbiamo preso in due e ci abbiamo diviso la spesa. Va bene, dai, buono, adesso lo voglio vedere com'è però. Che tipo di microfono è già, capito? L'EB300, presente ce l'ha. Beh, l'EB300 ce l'è presente com'è? Sì. È uguale. Raga, faccia guardo su internet un attimino, dai. Se non ti muovi li migliori tutti perché sono in offerta e c'hanno quei pochi pezzi. Un attimo, vai a mettere il fusibile qua. Perfetto, capire scomparsa, a meno che sia la guardia di cani, buh. No, mi ha mancata la luce. Cavagata. Ma non c'è il gruppo su lì? Non è il gruppo elettrogeno. Sì, c'è il gruppo, però non ho dimenticato il coso automatico. Perché c'è il differenziale automatico, capito? Abbiamo quello di un autotreno, il motore. Ho detto, i granai, c'è il motore di un camion, di un autotreno. Ti sta tappando la propagazione, capito? Lo so. Vabbè, dai, ti senti qua, ti senti adesso, andiamo via quando. Sì, no. E io dai. Ciao, dai, mi faccio un riposino anch'io. Amplificata la radio, A voglia, va benissimo, si può, certo. sbaglio 5 al villaggio. Questo passaggio 0. Come questo passaggio 0? Adesso sì, ma il passaggio precedente non ti ho ascoltato. Forse non ho schiacciato bene. E io sto scendo invece in realtà lì, confortabile qua, coordinate Filippo. Quindi si aggira diretto in casa. 7-5, dai, stai uscendo bene. Segnale 7, radio 5. Signore. Adesso lo movimento. Dopo imboccherò giù per gli abbracci. Stavo sbagliando il microfono, che. E tu guardi, si è appena svegliato, chi sì? No, ho negativo, non mi sono né coricato né nulla, stavo controllando questo microfono qua, dai. E gaffa, mi sono cercato di prendere per via giusti, sempre bene mi ascolti, cambio. Forte chiasso. Tu c'è una canonata, no, chiaro Monti, cambio. Cara gara. No, pure io sapevo si amplificava il suo microfono. A voglia, che apparecchio stai usando? Un vecchio apparecchio residuato bellico. 23 canali. Un SBM, di quelli vecchi antichi proprio. Gaffa, io ci sto usando l'ala 38, non so se mi hai sentito ieri. Sì, già lo so che c'è quel portatile. Io sto usando un vecchio microfono e questo SBE. Questo mi dà un po' di preoccupazione. Ti faccio vedere questa antenna da salita, te ne muro. Io ho la PLC 800 con la base magnetica, che è una bomba, gheve. Ui, che se ce lo vedi questa antenna, te ne muro. C'ha la bobina trasparente, si vede dentro l'avvolgimento, il rame. E K. Il mio non si vede, ma funziona bene l'antenna, quella che c'ho io. E poi, praticamente, come si dice, è attacco PL, vitti l'antenna e rimane il PL femmina abitato alla magnetica. E io me la devo comprare, un'antenna così mi serve, cioè una base magnetica con l'attacco a PL mi serve. Che io ho un'antenna multibanda e mi serve una di quelle, capito? Di quelle basi magnetiche, così. Mi arriva sotto casa, quando mi ascolti è sotto casa, sono dietro i palazzi però, eh. 9-10, sì, dai. Già va bene, sento anche la propagazione da qua sotto casa. E anche io la sento. No, è bello questo apparecchio, dai. Mi piace te. Vabbè, dai, ti saluto, Natali, che devo salire a casa, ero a casa di mamma che gli stavo facendo dei lavori. Ci sentiamo tanto io la sera quando sto per andare a lavorare, attacco sempre l'antenna sulla capota e due modulati, schiaccio la portante e via, e schiaccio l'acceleratore. Ciao Natalia, più tardi. Ciao Salve, buon tutto, buon proseguo, se coincide a più tardi, ciao ciao. Perché può arrivare in voi, chi dici? Da sotto. Lì sento anche io, non c'è problema. Si ascoltano anche da qua, cara gara. Ciao ciao, a questo pomeriggio, dai, io mi esco per andare a Tramacco, accendo e faccio la chiamatina. E verso che ora accendi? Guarda, io alle 5 massimo sono fuori di casa e sto accendendo. E vabbè, ok, vedremo di ascoltarci, cara. Ciao ciao, dopo. Ciao ciao. Yeah, see you. Morning, how are you? I hear that mobile, but where you at in that mobile? Hey, you're dead man, you do a dokey love. Take care now and come see me if you ever go here with me. Well, I'll see you, boys, I gotta get back to work. Vai sul 10, vede? Sì, lì sulla preparazione del cielo. Io quando vengo il 27, se per questa preparazione, poi mi sposto sul canale, sulle frequenze nostre, perché qui c'è un casino di gente. Il dialetto è usato molto in Polonia, in Russia, e i paesi dell'est lo usano. E noi che siamo dei minchioni. Lo so, lo so. No, allora poco fa si è andato in FM, io da te ti ascoltavo bene, a lui sembrava che fosse sempre rimasto in AM. Già. No, ho capito, io dovevo dire. Va bene, comunque arrivi bene, 9.20, Radio 5. Poi dici, ma no, è tutto normale qua, e anche adesso, questo è originale, è un 30... Un 30... Allora, tu mi hai dato, era una faiette, si sa. Però c'è l'Inter, che ce l'avevo già io, che sono tutti precisi, sono tre tipi di radio che sono precisi, c'è l'Inter, la faiette è un altro, è della Midla, e sono identici precisi. Solo la città cambia, perché Instagram e o Fayette, però sono tutti precisi, infatti io la carcassa del tuo che mi ha dato tu, l'ho messa a posto e l'ho messa dentro questo dell'Inter, ma è tutto originale dentro, sono gemiti come cosa, dai, come carcassa. Era per commercializzarli con marchi diversi e poi la radio erano uguali. Vabbè Gigi, mi ha fatto piacere sentirti in radio, spero di riascoltarti, dai. Un abbraccio. Dappala, ciao, fatela, fate buon così. Ciao, ciao. Ciao Gigi. Martin, Gianni, ci sei? Сообщение дальнобойщику. Внимание, информирование автоматическое. Приготовьтесь выступать на сцену. Я благодарю вам, да, CQ canale 10, c'è qualcuno qua? Attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno qua? Attenzione Gianni, attento, doppio rum. Beh, mamma u, tu budu, mulu, cicomi, tutto, come sei più basso? 7, o due crisi ne sai tu, bubu, andiamo via, andiamo, bubu, ciao, non c'è nessuno, qua. Ci sono solo, ho sentito un fischio, ho fischiato anch'io, ma non è il fischio, bu, oh, yeah. A me, bene, sono arrivato, Manuele, il segnale sembra più pio, ascolta, guarda se cambia da questo passaggio, 1, 2, 3, a così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, allora, questo è il primo passaggio, 1, questo è il secondo passaggio, 2, allora conviene a tenere così, e quindi questo qua è più forte, e la radio è buona sempre, ok, bene, meda. E a che cosa? Un marito mi ha detto che è un bel forte come radio, arrivo bene giù a tavola, è amplificato almeno, vabbè dai, meno male che ho azzeccato qua. E il micro quello precompresso, quello palmare dell'SBE. Già va bene, attenzione sul 10, chi c'è che chiacchiera? Attenzione, binario 10, spostarsi dalla linea gialla. Ui, ui, ui. Adesso un altro alimentatore è nato, bello grande, che se buco bisa. E io, 1, 2, 3, 4 alimentatori. C'è sempre quello che mi ha dato tutto qui, infatti. Andar via, via, via, via, via. Pirri, pirri, pirri. Alla tracci della linea gialla. Sposta la linea gialla, Manuele, mica che passa il treno. Oh, comunque mi sono sistemato stamattina, non ci sto per niente, tutto mi sono sistemato qua. E con gli allentatori adesso mi accendo tutti i tre canali, tutto sistemato. Il mobile è sempre quello, però un pianale l'ho dovuto sollevare perché il microfono ci stava dentro. Le radio sono sempre cucine, sono, ma non è. Ho visto che ha messo il cigomone in vendita a 130. E quello baracchino che ho trovato io, quello americano. Non usa il cazzo metto. Noni, l'altro, quello con tanti bottoni. Vintage. E? Oggi lui. Tra poco si muore pure in vendita. Ah, se tu metti in vetrina, fai bellezza. Andà bene. Sì, ho questo motoreggio, ma quello c'ha 80 canali, mio Manuè. No, 45. Schiaccia l'HI su questo canale, così si automaticamente sul canale 50. Sì, tu rimane sul 10, però vai su HI, schiaccia prima pulsante e si automaticamente su 51, ma 50. Dai, mi ammemi. Domani 27, mi. Me lo chiamo io sì. Quindi, io la c'ho già nella busta, così mi si dove posso trovarlo, ci vado e ve lo tocco. E poi, un domani, se quando mi arrivano con la questione, me lo piglio come dico io però, il nuovo negozio. Quando l'ho pagato, che cazzo, ma il sagittario non lo spenderei mai, 400 va bene, cazzo, ma 800 è troppo, ma non è. Tanto fate tutto il mattesicosi qui, perché si illumina tutta la tastiera, ma dico, 800 posso prendere una bella signorina, mi diverto per un mese. almeno mi svuoto tutto, mi smuccio. Avanti. E chi sei così piccolino? Mario Passoretta, accidenti. Ho visto cosa ti ha mandato, la mia striscia, guarda se ti piace come l'ho fatta. No, questa qua me l'ha data una persona, è stato uno scambio. E poco esce forte, nuova. Eia. Il redditore che ho io è unico, non è staccato come questo, tutto uno, capito? E si è messo sotto il letto. Manuel, stamattina ho messo musica, ho alzato il volume, non ne metto più tutto il volume, sai cosa è successo? No, tutto funziona bene, l'ho staccato in fretta e fretta, tutte le sedie si sono messe a ballare, sono uscite fuori. No, vedi voce, il volume va, isso qua, sono uscito fuori, che se riesco a te a cambiare, ho abbassato per il volume, l'ho tutto, un volume costante, buono, sentia perfetto qua. Eia, già va bene. E poi ho tutto acceso, tranne che il PMR non l'ho acceso, non l'ho collegato, capito? Ehi, caro Bia, non posso fare tutte le cose ugica, solo quello che sono dimenticato. Nel PMR il collegare e neanche l'altro, perché mi mancano le prese. E il ricevitore, quello grande. Piccolino allora. Avanti che vuole entrare. Tu precedente. A me me ne manco maniare, sei tu. Presidente, il generale devi dire, avanti, eia, il presidente, capito tu, devi dire il generale sono, e che cosa? Quello con tanti tassi, dipende cosa mi dai, ma cosa non vai nulla, ce l'hai, ma dai quella radio che c'è a fianco, Luca, che è a Colonia, la metti in cucina, là. Sto che sta sempre, Alexa, metti musica, aiuto, scambio, ma già non funziona più, ciao, buonanotte, non accendi mai, baffuzza, se non accendi mai, e mica è tratto Antonio a me, A voi che ti ascolto, e allora sei più forte a tu, scaldano sa, eia, sì, sul 3 del 9:30. Sì, gli ha toccato la farfalla ora. Sì, le palle. Sì, fai anche due. Ma non è normale, modifico, c'è la farfalla americana, mi ho modificato. Ma non è, perché c'è il 3200. No, questo c'è la farfalla americana, modificato. Sì, ma lui ha detto c'è il 31, c'è il 31, se non è modificato sono 100 watt. No, ma che se non vedrà 100 watt? Una scommessa. Se so io, addosso le cose tue, cosa c'ha? Io so niente, manco il valvolino c'ho. C'ha la valvola modificata, c'ha. Dimmi, e tu sempre me mi ascolti, a tu? Sì, c'è un po' più in basso di ieri. Sono un po' più in basso, che c'ho troppa roba accesa, se no io qui la metà d'ora fonde. Avanti Gianni! Buona senti, deve essere roba spagnola, non sai, insomma. Beh, propagazione c'era. Franco è entrato, Franco Bilario. No, ancora no, non l'ho sentito. Ma come ti arrivo anche a muro, ascolta a bomba. Ricevendo di radio Tonino. Bene, allontanarsi dalla linea gialla. Ok Roger, tutto registrato. Questo è il microfono da 9,90 euro, cambio. Cioè, va bene, cavolo, per 9,90 ehi, va bene, però Mario l'ha comprato uguale Franco e li sta fischiando, non capisce perché. Che vuol dire collegato male? No, collegamenti già fatti, non ho fatto altro che attaccare lo spinotto, Torino, era già pronto. Ma fai, sei pronto, mica tutti i baracchini c'è lo stesso attacco. Porra, cazzo, lui c'ha il baracchino con l'interno del Galaxy uguale. E quindi ha lo stesso attacco. Ho capito. Eccomi. Ehi, ecco. Avanti. No, volevo ascoltare a Gianni, buonasera a tutti. Ciao Franco, forse c'è anche qualcun altro, sono entrato un po' a gamba tesa. Franco, 5 minuti. Franco, ciao, buonasera. Guarda, questo è il microfono in discussione. Aspetta, ma l'eco è tuo o quello dell'apparecchio? No, del microfono. Aspetta, è bello, Guarda, adesso lo alzo. Quello lì era al minimo e poco fa. Lo esce a metà. Guarda, guai, porfa. No, va bene anche come la prima. Cazzo, dai, così va bene, è vero. No, così non c'è. Guarda così. Così si sente un bel effetto eco, dai. Cappa. Guarda, se la batteria non ce l'hai un tester per misurarla. Dà un po' di energia, ma magari è poca, capito? Bisogna provare con la batteria nuova. Magari è quello fra, dai, non è niente. Abbiamo avuto anche la fortuna che l'attacco lo stesso, senza stare a saldare a fare. Dai, speriamo bene, dai. Se prendete, scusate, l'intromissione. Ciao Franco, a me di radio come mi ascolti, bene? Sempre forte, picchi allucinanti. Meglio così, dai. Già va bene allora, dai. Cioè, la 3 infatti a 9-10 sbaglio. E l'acqua impazzisce. Addirittura. Così, veramente. Non penso che sia così anche da Gianni, ma lui ti ascolta più forte di me. Quanti watt c'hai tu? Io? 5 watt. Prova a vedere se c'è i picchi. Ora, 1, 2, 3, prova. Ehi, dai, c'hai i picchi positivi. K. No, vabbè, dai, te l'ho detto, col microfono, quando ci pesci, che non te ne fai più niente, lo dai a me. Ma che te c'è da lui? Antonino. Ciao, bella. Buonasera. Ciao, Emanuele, ciao anche Antonio. Ciao, bravo, ti arrivo adesso. Vediamo sta casetta di esempi più forti. Adesso sei 9:15. Antonio, cosa hai fatto? Perché? Alzato hai. Compendi, faccio un freddo, cazzo. La mano mi scalda. No, ma l'altro giorno anche se pompavi non arrivavi così. Adesso sei molto più forte di prima. Che li fai la libidina. Ho girato l'antenna, ho detto di me, perché la boomerang è direttiva. Ah, cosa direttiva? Ah, va tutto di che prossimo mese a febbraio musco le zappe, data fino a Gammuro per zappe lunghe, la ponga a terza tetto, ti faccio vedere come esce con la boomerang. Sono tu lì che ci fumo dai nocchi. No, non sto scherzando, la boomerang è direttiva, se la punti verso di me arrivi sicuramente più forte. Tu è così. Centrale. Avete parlato in due? Ho detto, c'è sempre lo stilo centrale quello che conta. Non è così, no. L'onda è, come si dice, si propaga anche in base a quello che c'è sotto. Crea una specie di onda, un arco, capito? Ma se la metti sul tetto ti prendi tutti i lati. Tanto il risaputo che era direttiva la boomera, che è un'antenna direttiva, era risaputo. Ma devi più forte Alghero. Io ti voglio trovare a Pompen, la metto come che sia andata a capeciuga, ti faccio vedere che quella boomera esco una cosa micidiale. E certo che esce, è una buona antenna mia. Aspettiamo. Lasciamo sperimentare a me, poi ti posso vedere. guarda Gianni il profeta, che a te c'è una bomba lì. Ma Gianni il profeta è la zona anche che c'ha buona, Certo. Perché io di boomerang ne ho avuto e mi davano problemi sempre, mi davano le stazionali alte, non l'ho mai potuta variare a boomerang io, per quel motivo lì, perché da stazionali. E sto usando 200 watt quasi. E non è stazionali. Attendi. Una cosa è andare, una cosa è avere le stazionali, non averle. Anche con le stazionali a due va, ma si manda pure un finale da buca. Non ce n'è non che stazionali a due, no. Avanti Torino. Ah, Torino! Ma noi riprendi tu che Torino sta picciocciando al telefono, deve essere. E oggi ti ascolto più basso però, Manuel. Adesso provo a prendere il cacciavite e ci provo a impiattare il dual mic a vedere. Oggi mi sembri più basso del solito. No, aspetta, non lo so, però ti ascolto uguale, non ho QRM fortunatamente. Com'è questo dual mic? Ma c'è il cavo? Dual mic funziona sia col cavo che senza cavo. Adesso lo attacco il cavo, torna lo provo. Ma è un microfono normale, no? No, adesso hai peggiorato. Sì. No, rispetto all'altro giorno mi ricordo che il segnale era leggermente più forte. No, mettilo come prima, dai, che era meglio come era prima. Lasciala così, è aumentata appena. Sì, perché non so, allora ti spiego, non ce l'ho fatta, devo utilizzare il coso del PL, la fissatura, perché se l'ho avvisto e se passa. Va bene così, così hai migliorato un po'. Perché non so ammazza. Lo so, va bene così però, dai. Dai, avanti già. Franco, hai provato a abbassare il mic gain quando l'hai provato il microfono, abbassare appena il mic gain? Sai che mi sa di no. Non è che esce troppo forte con l'apparecchio e con l'amplificato fa il ritorno? Può essere. Dai, lo provo con calma, dai. Calma. Sono contento, quando davanti funziona, che è stata davvero una bella fortuna abbiamo avuto. Un po' sfigato. Vabbè. Comunque non lo so, perché ce ne sono due modelli, hai visto che c'era anche il M. No, come si chiama? No, F48, questo è l'F100, ce l'ha consigliato, non mi ricordo chi, di prendere il 100 che era superiore, buh. Gavino ce l'ha consigliato, perché l'ha avuto anche Gavino, capito? Ha detto che andava bene. Speriamo di aver fatto la scelta giusta, dai. Magari la batteria, se la batteria è molto sotto, l'hai misurata quant'è? No, non l'ho misurata, per me l'ho rimpiazzata dentro lo sciure. Ah, ho capito. Perché se no avessi misurata per sapere quanto da. Perché anche a me l'altra volta non uscivo di radio, se sentiva la portata non uscivo di radio, tutti dicendo magari qua, magari là, e invece era la batteria. Sì, infatti prima di fare cose conviene prima togliere le scuse principali, no? Batteria e così via, poi si trovano altre soluzioni. Probabile che non ce la faccia alimentare il circuito, capito? Comunque è buona la radio, confermi. Sì, non è super amplificata, però è chiarissima, è chiara, si sente l'eco, bello. Paga. Vabbè, non è che interessa che sia forte, l'interessante è che sia chiara e si capisca bene, dai. No, ma è anche forte, cioè, sicuramente anche l'apparecchio che spinge. No, questo apparecchio è normale, no. Praticamente se io lo provo magari sul Galaxy, su un altro apparecchio che ho, il Cobra, magari spinge un po' di più. Vabbè, ti ascolto abbastanza forte, adesso dovresti cambiare il microfono per fare un paragone allo stesso volume, capito? Però è forte la radio. Poi va bene, dai. Interessante che mi ascolti bene. Qua mi serviva proprio perché non aveva amplificato. Mi si era rotto e l'ho buttato via. Quindi ho preso e mi sono preso questo qua, dai, per sostituire quello che c'avevo, perché ne avevo uno normale qua. Per quello che costa, è un microfono che a prezzo pieno costava 40, quanto era? 45, 49 euro, 46, era scontato del 76%. Perché è un microfono che va bene, questo qui è come l'M300, è la stessa, l'ho guardato dentro, è preciso. L'M300 chi lo fa? Intec. beh, allora, ormai sono le stesse ditte che costruiscono, poi a me mi sembra che è uguale a quello che ho in macchina, quell'M95, come cavolo si chiama. Sì, ma l'M95 sa più di giocato, c'è il cursore giallo, a me non piace. Ah, questo è un po' più serio, dai, più signorile, come dici? Sì, è vero, è vero, è più, diciamo, quella di Bosciuti, signorina, va bene. Paga. Avanti, Antonio, si è messo, Tonino, che è rimasto, avanti. Oh, anche Galvino, sì, Galvino, sì, ha detto che riceveva un po' di bianco. Ah, io Galvino, non l'ho sentito, sapevo manco che ci fosse. Non è che sto sbagliando nome, no, non era Galvino, no, Manuele. Ah, Manuele, Galvino l'ho sentito presto stasera, quando stavo provando questo microfono, e poi è entrato Franco e mi ha detto, questa è una bomba, già, bellissimo, va benissimo. Ok, sai che ce l'avevo pagato. Tanto è vero che hanno detto lui e Natalino che ce lo prendono anche loro. Sì, se non va bene nel mio, vai, lo posso dare un altro, se da me non è compatibile. Paga, almeno che sia il microfono difettoso. Io, guarda, non c'è problema. Se qualcuno lo sente te lo dico. No, prima lo proviamo, lo presto a te, lo provi tu. Se tu chiama a te vuol dire che è un problema che ti ha dato a me, Ah, cioè tu metti la batteria e te metto lì col pensiero lì, capito? Certo, quella è la prima che facciamo, e poi vediamo un po', l'ho preso a te un paio di d'ore. Tappa, sì, ci vuole nulla, no? Viene a casa, lo proviamo, se va bene, tanto io ho le cuffie, metto le cuffie, mi faccio fare l'ascolta con le cuffie. E così facciamo anche la regolazione, che io ho provato anche a modificare i trimmer, li ho rimessi com'è, no? Ma anche a mano gira, no? Senza bisogno di cacciavite, sono in plastica e tipo un volume, dai. Sì, ma hai capito i trimmer perché cosa sono? Perché io ho guardato se c'era qualche cosa, qualche disegnino, qualche cosa, ma non c'è niente. No, io ho letto, sì, ben rientrato, ho letto che sono regola sia la ripetizione che il volume della delle regolazioni base sono. L'amplificazione, il volume c'è anche. No, parlava di volume nel senso della ripetizione sempre, no? Uno è la ripetizione, uno è il volume della ripetizione, quei trimmer lì. Ho capito, dai. No, ma io l'ho lasciato così, no, mi sembrano che vadano bene. No, va bene, che poi tu agisci sull'altro, su quello che c'hai davanti. Paga. Questo qui è il 3009, normalissimo come apparecchio, capito? No, esce bene. Avanti, Tony. Allampetici tutto. Col. Mimì, poco, ma ne mi. Ho detto, Fra, ti arrivo così in basso. Come basso? Sentivo 3-4 boggitizio. Sì, se tu metti la portante, scendi a 3. Però quando parli, sicuri, non a fondo scala, ma arriva a 9-15 almeno, 9-20. Guarda un po'. E adesso? No, adesso rimane la portante fissa, sei sul 9-20 fissa, e poi c'è anche i picchi negativi. Ecco, via, lascialo così, dai. Sicuramente così risparmi sia il finale, che sicuramente lavora di meno, lavora solo in modulazione, capito? Gianni. Ma che cosa stai combinando? Non ho capito. Io sto facendo una rivoluzione, ho tutto modificato. Ho messo il mobile a rovescio e il baracchino è girato all'indietro. A testa in giù? Figa, le altre sangue a testa. E quindi parli col cavo dell'antenna? L'antenna l'ho fatto a una girata, piegata. Il microfono attaccato a posto del PL. Natalie. Vabbè, già scappato. Attenzione, Natalino. Nataliu. A lui era. Come era lui, blu. Gianni già lo conosce solo dal respiro. Io non ho sentito, se no ti avrei detto sì, è lui o no. Non ho sentito per me. Paga. Vabbè. Comunque quel microfono va bene. Se non stai usando l'amplificazione, sei un bel forte. Allora, ripeto, la foto te l'ho fatta, è un SBE, c'ha il pulsante quello rosso. È normale, è carino anche perché è piccolino, capito? Perché è precompresso quello lì. Hai capito fra qual è? Quello col tasto rosso è tipo quello che. che c'aveva il toccai con la compressa. Sì, l'ho visto qualche volta in foto, dai. Foto, non lo conosco di persona. Non l'ho mai visto dal vivo, eh. Un attimino di bianco. Già, questo era attaccato all'altro baracchino che avevo dato a una persona, capito? Praticamente il baracchino è 69 carare. Quando usciva quello che me l'ha dato, anni e anni dietro, usciva mai forte, ma cosa mai preplificato? No, ma che normale, e non ci credevo. E dopo ci guardo all'improvviso a casa sua, era giudizio. Sì, sì, quelli lì sono preamplificati, sono precompressi, dai, vanno mica preamplificati a volte. Sembra, ragazzi, che vai un tarda. Addirittura, raga. Ehi, raga. Anche in curva. Mia tatalino, invece. Tatalino. Cazzo, mi riconoscete? Ho cambiato apparecchio e mi riconoscete, boh. Natali. Boh. E beh, ordinati li avete. No, negativo. Già li ordiniamo, però. Adesso sto usando un altro apparecchio. Tu devi cambiare elicottero, non l'apparecchio, ecco perché ti riconosciamo. Ma questo, il microfono è diverso e l'apparecchio è diverso lo stesso. Come fate a riconoscermi subito? Natali, Gianni c'ha il dito veloce, ti sa proprio dorato. Avari, chiedo rimane a chi sumi. Dai, parla. Ripeti, Natali, cosa hai detto? E cosa ha detto? Brisco, ma... No, cosa hai detto tu? Giudizio, chiedo rimane a chi sumi. E che non è chi che giù. E che vengo in chiave e ti chiedo rimane, si mi dorà sovramodulare. E io ti faccio la doccia d'acqua fredda quando ti vedo. Gli facciamo la punizione che lui non può andare più a prendere le paste. E poi gli facciamo mangiare il brodino di mammo. Giustissimo. Ti stavo dicendo, Natali. Oh, dimmi. Ma se oltre 60 euro l'uno, più di 50 euro comunque in ogni caso. E c'è 70% di sconto adesso. Hai notato, Natali? Ti stavo dicendo, Natali, molla, tu vai a parlare, pra, e riprende lui. Perché c'ha il dito veloce. Gianni, sei troppo veloce. Jack lo svelto. Ma io l'ho sempre detto, ci mette molto a sovramodularmi. Gianni, cosa mi combini? Gianni Spalanetto. Sono in QRX, parlate voi. Aio, dai. Offesa, assieme. Ah, cuoricino. No, è perché poi non ne capisci una, perché Natalino ti stava rispondendo e poi hai schiacciato letto. Natali, hai mollato e poi hai ripreso di nuovo tu. Aspetta che riprenda anche Natalino. Natalino non è così veloce come te, no. Non devi offendere, aio, dai, su. Tanto non sappiamo chi sei vecchietto. Natali, mettiti il turbo. Ma cosa mettiti il turbo? Aio, dimmi cosa mi stavi dicendo, invece, che non ho capito niente. Se tu mi sovramoduli, ricevo mezzo messaggio, da. Allora, stavo dicendo che quei microfoni costavano oltre 50 euro, adesso c'hanno 70 euro per il disconto, perché sono in offerta. Se voi tardate, non lasciate di più. Ho capito, domani li ordinerò, dai. Gianni, ma sei per Amazon? No, il sito è il sito della Milan. Eccomi. Riprendi, che c'è anche Tatalino. Quindi era lui, già non abbiamo sbagliato, anzi, non ho sbagliato. Tu sei una spia, sì. Subito dici, mi può comare. Ah, dimmi, sotto falso nome. Tutto a posto, Natali. A posto, Natali, abbiamo parlato assieme. No, negazio. Non apri a nessuno. Tutti fuori siamo, c'è nessuno. L'urinale è dalla finestra, svuota. A Santiga, da Zotu. Cazzo, è fra, devi dire, da sopra, che da sopra che parte l'urinale. No, da Zotu, ai cecini da Zotu. Ai Zutta. Da Zotu è 3, mamma mia. Da Gianni viene meglio anche a Udersobbiano. Da Gianni arriva a metà nebulizzata. Si espande. Tipo aereo, me. Tony, come ti sto arrivando a te? Dammi un controllo a vedere come ti arrivo Santiago del Radio, per cortesia. Tu sei in mezzo a 9.30. La radio è 5. Ottima, perfetta, pulita. Cazzo, sto usando uno di quegli apparecchi vecchi, tipo vecchio. È un Turner più 3. cosa dici? Che stai facendo bene questa storia? Ha voglia, è perfetto. Ma non amplifica bene, però. Vabbè, non ci posso fare niente. Il microfono è basso adesso, se vuoi aumento. Ma devi capire già che lui c'ha anche un baracchino vecchio. Prova a aumentare, e il tunnel è lo stesso vecchio, va bene per gli apparecchi vecchi. Prova a aumentare il microfono. Guarda, adesso ho aumentato un altro po', bene là. No, vai. È forte. Forte. È più forte di prima. È buono. Guarda, così. È buono, sempre buono. E lo lascio così, dai, se no aumenta il gruppo da lui. Natali, mi interessa anche quel microfono. Questo microfono? Ehi. Ma questo non lo do, è un regalo che mi hanno fatto. E non lo do, dai, è un Turner più 3 di quelli americani. Grigio. Sì, c'è scritto Turner Plus 3 in inglese. È originale americano questo. E c'è scritto anche USA sotto. Sì, c'è un tasto, c'ha. Sì, c'è anche il tasto, lo so, lo conosco. E vabbè, quando ti stufi me lo dici che io lo attacco qua. Che voglio attaccare, tanti microfoni voglio attaccare. Ma dimmi tutto. Ma il tuo non va, perché? Il mio? Non va perché con il tuo super sidekick. No, devo fare gli attacchi, non a giocare. Mi si è bruciato anche il salvatore, si rabbia luci. Ho capito. Poi ne ho comprato un altro. Però non lo voglio, non c'ho. Allora, il mobile che io ho ricostruito, praticamente ho sollevato il pannello per starci anche il microfono, di fare quello nero. Però giustamente è tutto fatto e poi non c'ho il piano per poter lavorare, quello mi dà fastidio. Mi devo costruire un piano stesso largo così per appoggiarmi il microfono, tutte queste cose qua. Siccome non c'ho quel piano lì e quando ne avrò voglia, poi piove sempre, è un casino, prendi la tavola fuori, ecco perché. Comunque a me i tarri mi piacciono, quello vorrei mettere anche su 23 o su Midland. Hai capito Gianni? Sì, ho capito. No, io il mio l'ho venduto perché mi fischiava, lo smontavo, li regolavo le lamere, funzionava, poi lo rimontavo e fischiava di nuovo. Alla fine mi sono rotto le scarpe e me lo venduto. Hai capito Natali? Il suo microfono lo fischiava perché ha visto una bella donna. No, se lo mettevi sulla gamba non fischiava più. Eh beh, vedeva l'uccello, la passera, il pappagallo. No, è come lo avvicinavo all'apparecchio, mi fischiava. Se lo mettevo sulla gamba andava bene. E anche a me lo faceva già. E io ho fatto massamente tutta la parte opposta del microfono, non te lo fa più. Ho provato mille modi, Tony, fischiava sempre. E invece sulla gamba non fischia più, capisce bene. Però ci va con una leggera alternata. Beh. Io insomma ho adattato questo SMI e ti posso dire che sono troppo contento. Anche Emanuele mi ha detto sei, ha una radio fortissima. Anche quello della Detagli, che io lo uso qua, se attacco il lineare, c'è il rientro di radiofrequenza e innesca, e fischia. Io ho quello SBE, quindi, nel famoso 69 canali, 23 sotto, 23 normali, 23 alti. Che aveva un mio zio CB che poi se l'ha cuto tutto dalla cassa panca, dopo più di 20 anni me l'ha regalato a me. E non accedeva più. Ho preso il microfono un giorno e ho detto amici a vedere se funziona in occhi. Eccomi qua. E va bene, va bene. No, quel microfono lì, il ZG sicuramente non è schermato bene. E mi basta fare una massa. Beh, boh. Invece in macchina, lo uso in macchina, te è un palmare, no? In macchina non con i watt dell'apparecchio non fischia, non innesca. Oh già, e tu non hai provato a fare la massa? Sì, ho provato dal microfono all'attacco che c'è all'apparecchio del microfono. Provato, gli ho messo anche un filo, un cavo un po' grossetto, di modo che facesse massa bene. Beh, niente da fare, tu. Oh, fischiavo c'era alternata, quindi cosa lo tengo a fare per darmi i problemi, per occuparmi spazio? Ho preso e me l'ho venduto 100 euro e me lo sono venuto fuori. Ti ricordi quando ce l'avevo io? Io questi problemi non ce l'avevo, ti ricordi? Vabbè, comunque il potenziometro già non funzionava. minimo non funzionava, lo devi mettere al massimo per andare bene. Io ce l'avevo, ripeto, al massimo, il Mackie ce l'avevo a tre quarti del baracchino, era un bombò, me lo ricordo benissimo. E a te infatti ti è piaciuto perché usciva bene, forte. Vabbè. Andato sereno. No, venduto là e non andato sereno. Sei batterina. Ma l'ha venduto anche bene. Qui che era il super sidekick di me, è il migliore che c'è del Turner. È la pernavera del Turner. È quello che ha la parte cromata dove parli. Che ce l'ho io, uguale. Ma come soprammobile. No, non è soprammobile perché hai detto ormai di Amburo. C'ho anche l'Espander 500. Oia, già va bene. Vedi, Franco già esce a forza, gà. Ma lui c'ha lo sciure. Che cosa sta venendo? Qualcuno qui a Sassari mi ce l'ha, nello sciure. Forse è Luca Flipper. Non sai che quanto lo sta vendendo? Non lo so, un'ottantina credo. L'ho visto comunque su Facebook, quella, un mercatino di Facebook, dai. E credo che sia Luca, sì, ma è Luca, Luca c'ha qualcosa in vendita. Ah, Luca Flipper. Sì, se non ha già venduto, cioè, c'è un po' di roba, c'ha parecchie cose varie, dai. Ma ho visto un po' di roba da Luca. Vabbè. Scusi, tutta la roba che c'ha, se c'è ancora, c'è anche lo sciure. No, non mi interessa. Via, comunque c'è bene, dai, mi fa piacere. Tu esci forte, la verità, è buono, come microfono. A me non mi interessa per altri motivi, poi potrei spiegarlo, ma potresti capire perché. Preferisco prenderlo da fuori. Certo, vabbè, sono cose vostre, dai. Oh, questo prima usciva ancora più forte perché era collegato a una scatola, non so se ti ricordo, una camera eco che era anche amplificata, quindi figurati, usciva ancora più forte. E c'aveva anche Cosomi, Gianfranco. Non riesco a trovarla, anche la mia si era bruciata, nessuno la può procurare, quelle scatole ecco, non è neanche di marca, mi sembra che fosse della ZG. Gianni, non ce l'hai tu? No, io non c'ho niente. Che cosa? La camera eco della ZG. No, non l'ho avuta comunque, l'ho avuta. Io ho avuto anche il distorsore, c'avevo l'apparecchio che ti faceva vedere quando uscivo in distorsione. Si accendevano le luci da verde, da giallo, verde e rosso. No. Comunque, che c'è rimasto, Natalino? Boh, un attimino che rimanga in Corrix. Che c'è rimasto? Manuele, c'è ancora? Torino, Manuele, Natalino. Natalino non risponde, non ho suonato la porta. Natalino, Manuele, sì. Un attimo. Anche tu un attimo. Ma cosa vedi? Un cuccio qua. Casa. Manuele c'ha la voce molto simile a un parente dalla parte di mia moglie. Manuele parla così perché sta sempre mangiando. Ma uguale, vedi? Poi dice, sono aumentato, mi peso 100 kg. Per forza, ma aveva così grasso. Mangia. Mi ha detto la dottoressa che devo fare la visita all'elettrocardiogramma perché il cuore sta soffrendo, quel è il grasso che ci sta accumulando per forza. Sto dimagrendo, poi la ciappa del polamide è per il nostro più mare di buco, cioè mai niente. Perché c'è l'antenna attaccata al frigo e quindi ogni volta che uso la maria per il frigo è un casino, capito? Ma voi anche se non lo dice, guarda, tu lo vedi su Facebook, con certi piantoni mangiando lui con luci barrate, a me da me, non lo dice, però si vede in foto su Facebook. Vabbè, io pure so cose per mangiare nelle foto. Oh, io passo in quel Rix, passo, che devo fare una cosa qua. Ci sentiamo dopo. Ciao caro. D'accordo Natali, siamo qua. Ciao, buon quel Rix. Che ora sono le 7, via. Niente, a me comunque mi ha detto Gianni che esco con la radio come uscivo una volta, forte. Allora, un tempo avevo il Turner più 3 grigio, sempre con il Galaxy Sottobrecco, ma sto parlando roba di 25 anni fa. No, esce bene, ma nessun problema. Tu conta che io ho sempre l'antenna che non è sul tetto, quindi non è che sento tutti bene. Ma com'è fa questo difetto dei picchi positivi che salgono così in picchiata? Boh. Ma se tu metti la portante, scende a 3, quando parli, cazzo va a 9, 9,20. Ma rimane fissa lo bevite parlando oppure se ne scende a smarzi? No, proprio tutto picchi. Appena smetti, no, c'hai qualche piccola pausa, lui scende, no? E poi risale. Come si chiama? Quelle apparecchie modificate, quelle colte. È tutto modulazione. Capito. Non so cosa abbia allora. Sarà che c'è un microfono, No, sicuramente stai usando pochi watt, capito? Sì, sto usando il minimo, sono quasi a zero io del baracchino, capito? Però di modulazione salgono di brutto, capito? Anche se l'importante sono pochi. Quando parli salgono i watt, sicuramente aumentano parecchio. Se sarei così picchiata, sì, senz'altro. Poi mai sarà pure anche il mio Smith, che non è un granché. Comunque tu sei, non sei neanche lontano, sei vicino a me, vedi nell'aria. Sicuramente, anche se non ti vedo, però non siamo lontani, qualche chilometro qua, 4-5 chilometri neanche forse. Ma in macchina o in linea d'aria è molto meno? In macchina, dico sì, è meglio, perché poi c'è tutta la vallata, io non so in che punto tu sia. Io sono prima della statua. Di San Giacomo? Di San Camillo. Sì, ma la statua quella lì è di San, non è di San Giacomo, quella che c'è sulla strada. Ti giuro, fra, che non l'ho mai letto di che è la statua. Neanche quella che c'è al biciclo. Mai le leggo. Quella biciclo dovrebbe essere Garibaldi, mi hanno detto che non è di Garibaldi, tu quasi l'hanno impugnata. Mi pare da Garibaldi, mi pare. Si chiama biciclo Garibaldi, sta ragazza. Adesso chissà perché mi viene San Giacomo con la statua, ma sbaglio io, perché essendo San Camillo, vale San Camillo, non lo so, dai. La conosciamo per San Camillo, poi se la sposta la non uso più, poi più da so. Comunque sono prima della statua. E niente, cosa posso dire? Io vedo Sassari, vedo, c'è una melaria di veduta di Sassari, invece ho lì l'arte rocce, quella zona lì, il monte. È una bella zona, cioè, dai. No, io purtroppo. Oh, se dovessi metterla sul tetto sicuramente guadagnerei tantissimo. Stare più aperto, ma purtroppo per adesso non si può. Secondo me che apriamo il tetto, bisognerebbe fare una botola, qualcosa per essere accessibile, mettere un bel palo, magari lontano dalle antenne della TV, un bel palo robusto, sul colmo proprio del tetto. Il cavo ce l'ho già. Ma io ho fatto, guarda, una piattaforma in calcestruzzo. E siccome c'erano qua dei lavori e stavano continuando a fare, c'era questo scavatore piccolino, ho detto, almeno fai un bel scavo qua, me l'ha fatto come ho voluto io, poi ci ho messo un bel po' di ferro, ci ho messo il palo, l'ho affogato, 2 quintali e mezzo di calcestruzzo, ti dirò che è un buon semitre il palo, io sono di terra il palo praticamente. Ma anch'io potrei partire da terra, soltanto che sono 3 piani, per passare, diciamo, il tetto dove avere almeno 10-12 metri di palo, minimo, e mettere l'antenna sopra, è troppo, hai capito? No, così di mettere sul tetto direttamente, poi basta, che ti bastano 3 metri, sei a posto, cosa 12 metri, proprio fondamentalmente sì, perché più alto è più pericoloso, è l'oscillazione, o meglio, quanto ti devi mettere, no? Sul tetto lo metti beato te, io qua c'ho il palazzo a fianco ma non me ne faccio le muri, infatti voglio mettere più alto ancora il palo, oppure prendo un bel tranice e buonanotte. No, qua il problema è che sul tetto, vabbè, ci sono quei tetti antichi, con le tegole, se ci passi sopra guai, facci tutto. Ecco perché voglio fare una botola per uscire fuori, mettere quelle lucernaie lì. Una volta che fai quello, che si affaccia direttamente sul cordolo in cemento, ci cammini sopra e metti un palo lì e via. Però per adesso non si può. No, adesso non hai il tempo di fare questi lavori che hai detto, perché non te la permette. Ma ho visto sempre piovendo, ora non si capisce più niente. Poi umidità, un casino, Questi lavori si fanno primavera o estate. Sì, no, ripeto, poi, grazie a Dio, già per quello che serve a me, già mi sento, no? Certo, non arrivo bene al Alghero, anche per di lui al Alghero, non li sento. Un po' a Porto Torres, un po' a Sorso, e basta. Però è estate, già mi sento. Faccio anche qualche DX, mi. No, vai bene, diciamo. Io non so che antenna c'hai, che hai, però ripeto, esce abbastanza forte come radio e come segnale ultimo. Quindi se metto che ce l'hai nella finestra, ottimo. Sì, e quella l'ho fatta io, una canna da pesca, l'antenna l'ho costruita col cavo guasciale, tipo come si chiama? Tipo la Game Master mia. Abbiamo fatto il progetto, me l'aveva dato insieme a Giulio. Ah, prima che l'ho azzeccata, l'ho messa, l'ho attaccata a una isolante, è esterna pure, non è neanche interna, perché ho messo il condensatore LRG213, quindi dentro non ci stava, e quindi gliel'ho spalmata sopra e l'ho attaccata al nastro. E già va bene, allora quanto è lunga? 7 metri. La canna è 8 metri, la bobina arriva giù, giù, infatti ci ho dovuto mettere anche un palo in legno, perché metallo non ne puoi mettere, perché c'è la bobina.